Paolo Scibilia, da Sentimenti nel vento. Se fossi un gabbiano. Se fossi un gabbiano, lassù nel cielo trascorrerei la mia vita. Su rami e fili poi giacerei un istante. Se fossi un gabbiano non saprei dove atterrare, come quaggiù sogno di volare. Fra stanchissime stelle e pianeti spenti, è lì che bagnerei i miei occhi stanchi. Se fossi un gabbiano non sarei felice, avrei due ali e sarei più veloce. Mi darebbero la caccia. Come qui mi sento cacciato via. Se fossi un gabbiano vivrei di meno. Come qui invecchio sempre di più. Se fossi un gabbiano non cambierebbe la mia vita. Se fossi un gabbiano sarebbe già finita.